Bene, bene, bene. Alziamoci ancora in piedi. Se vuoi farlo con me, alza le tue mani al cielo. Vogliamo pregare ancora a Dio. Vogliamo arrenderci alla sua presenza. Vogliamo prima di tutto ringraziarti, Padre, perché siamo famiglia. E vogliamo ringraziarti perché tu sei il nostro Padre, la nostra guida, la nostra autorità. E rimettiamo le nostre vite nelle tue mani. Io prego per ogni persona, per ogni mio fratello, per ogni mia sorella, di fronte a me, affinché tu possa benedire le nostre vite che siano abbondantemente arricchite dalla tua presenza, Padre, dalla tua guida e dalla tua protezione, perché tu sei un Padre buono che guida, che protegge, che ci custodisce nella verità. Padre, dipendiamo da te. Ti chiediamo di parlarci stamattina. Parla ai nostri cuori, edifica le nostre vite. Continua a trasformarci, continua a farci conquistare nuovi territori. Desideriamo questo nel nome tuo, Gesù. Amen. Amen. Accomodiamoci. È bello essere famiglia. Io voglio ribadire ancora una notizia, che è quella della conferenza, semplicemente perché questo video, questa parte dell'incontro va su YouTube, no? Quindi questo video lo vedranno in tanti, e quindi approfitto per dire a chiunque sta ascoltando le mie parole, sta vedendo questo video, il modo migliore che hai da spendere il tuo tempo e i tuoi soldi nella restante parte di questo anno è con la Chiesa di Gesù Cristo qui a Bari. Amen? Siamo d'accordo? Vogliamo convincere tutti insieme, tutte le persone che ci stanno seguendo lontani dal nord al sud, venite l'1, il 2 e il 3 novembre, perché Dio ha preparato per noi un tempo speciale. Quanti sono d'accordo con me? Amen. Quindi io non vedo l'ora di questo tempo speciale. Dio ci sta arricchendo anche di connessioni e relazioni speciali con ministri di una certa portata, una certa esperienza, che avranno da impartire determinate rivelazioni, e io sono convinto che le nostre vite non saranno più le stesse dopo quei 3 giorni, quindi non mancare alla conferenza l'1, 2 e 3 novembre. Poi c'è qualcos'altro che voglio dire. E questo riguarda proprio l'incontro della scorsa settimana, perché io credo che c'è potenza profetica nel nome che diamo anche agli incontri, e forse dovremmo cominciarlo a fare per ogni mese dell'anno. Però quest'anno è stato proprio vero. Domenica scorsa noi l'abbiamo chiamata special, ed è stata una domenica speciale. Dio ha operato e Dio ha portato guarigioni fisiche. Quindi se hai avuto una guarigione fisica, vienicelo a dire. Proprio qualche giorno fa parlavamo con Antonio di quanto non solo domenica scorsa, ma nell'arco dell'intero anno e del tempo che ci sta alle spalle, Dio guarisce. A volte non abbiamo l'occasione di dare aggiornamenti di tutte le guarigioni che noi abbiamo in mezzo a noi, ma Dio è vivo, Gesù è vivo, e non è vivo solo perché lo scriviamo su un banner, ma Lui opera, agisce, guarisce ancora oggi i nostri corpi. Amen. Quanti possono testimoniare che Gesù ha guarito il proprio corpo? Guarigione fisica. Chi è che può dire Gesù mi ha guarito? Alleluia. Vedete le mani? Gesù è vivo. Diamo a Lui la gloria per questo. Quindi venitecelo a dire. Così ci diamo poi occasione anche di comunicarlo, comunicare come Dio opera. Quindi parliamo di essere famiglia, perché sapete una cosa importante. Noi troviamo solo nelle 13 lettere di Paolo, solo nelle 13 lettere che Paolo ha scritto nella Bibbia, ben, pensate un po', 277 riferimenti al fatto che la Chiesa è famiglia. Al di là di ogni altra identità che la Bibbia dà, Chiesa come sposa, Chiesa quale corpo, Chiesa quale gregge, Chiesa quale... Vi vedo preparati. Sposa di Cristo? Oh, l'ho già detto, sposa. L'ho già detto. Quindi mi manca un altro. La famiglia di Dio è sicuramente l'identità che nella Bibbia è più presente. La famiglia di Dio è ciò che ci identifica più di ogni altra cosa. Questo è qualcosa, è una rivelazione importantissima che noi dobbiamo avere nelle nostre vite, perché questo ci ricorda che abbiamo un padre. Giovanni 1... Giovanni, l'Evangelo di Giovanni al capitolo 1, versetto 12, dice che a tutti coloro che lo hanno ricevuto, che hanno ricevuto Cristo Gesù, egli ha dato loro il diritto di essere chiamati figli di Dio. Noi siamo figli di Dio, noi abbiamo un padre, noi non siamo orfani, noi non siamo soli, abbiamo una relazione, la relazione più importante della nostra vita è con il nostro Padre Celeste. Dio è nostro Padre, questa è la rivelazione più grossa e di conseguenza noi siamo famiglia, siamo fratelli e sorelle in Cristo Gesù. Ora, io mi sto addentrando in quello che è una nuova applicazione nel mio cellulare e mi sto lanciando ad utilizzare Instagram. Per quanti hanno Instagram lo sanno, so che alcuni mi hanno scelto quale loro amico di Instagram, c'è qualcun altro che mi ha abbandonato subito, evidentemente non ero gradito, quindi Dio vi perdoni per questa scelta. Però su Instagram ho scoperto una possibilità, la possibilità di fare delle domande. E quindi ho inserito questa domanda. In che modo nelle nostre chiese dimostriamo di essere famiglia? Ho fatto questa domanda ai più di 806 followers che ho, per la precisione, perché tutti coloro che hanno Instagram non fanno altro che continuamente controllare quante persone li stanno seguendo. Io ne ho 806. Siamo partiti da 3.005 e ora stanno diminuendo col tempo. Rimarremo in 10, io, mia madre, mio padre, i miei fratelli. E niente, mi hanno risposto da diverse chiese in Italia e le risposte che ho avuto sono davvero curiose. Se le voglio leggere per voi. La prima risposta che ho ottenuto alla domanda in che modo nelle nostre chiese dimostriamo di essere famiglia è questa: quando preghiamo gli uni per gli altri, spendiamo tempo gli uni con gli altri e portiamo il peso gli uni degli altri. E sapete di questa risposta che cosa mi piace di più? Che ha utilizzato questa terminologia, gli uni gli altri. Sappiamo bene che la Bibbia costantemente usa questa terminologia quando si riferisce alla Chiesa. Noi edifichiamo gli uni gli altri, preghiamo gli uni per gli altri, benediciamo gli uni gli altri, ci perdoniamo, ci salutiamo e continuamente troviamo questo che è un esercizio, un'azione che il Signore ci invita a fare. Qualcun altro mi ha risposto: quando diamo attenzione e cura, non solo quando siamo in chiesa, io credo che facesse riferimento proprio all'edificio. Ora, noi sappiamo che la chiesa non è un edificio e noi non prendiamo cura e non diamo attenzione ai nostri fratelli e alle nostre sorelle solo quando ci riuniamo, ma durante l'intero arco della settimana, nei mesi, nelle stagioni, negli anni, perché siamo famiglia. Quindi è un'ottima risposta. Un'altra risposta che ho avuto è, per esempio, prendendoci cura del luogo di culto, come faremmo a casa nostra. È una bella risposta. Il luogo di culto è questo, no? L'edificio nel quale noi ci riuniamo. E so che ieri alle 10 di mattina un gruppo di eccellenza, di Servolution, è venuto qui e ha lavato i pavimenti, ha lavato i bagni, ha lavato i luoghi dove noi ci riuniamo. Vogliamo fare un applauso a questo gruppo? Siete instancabili. E in questo dimostriamo di essere famiglia. Ora, qualcun altro ha scritto: conoscendoci e stimandoci a tal punto da lasciare una mansione a chi è più portato, più efficiente di noi. È interessante come risposta. Sicuramente ha qualcosa di biblico il fatto di stimare gli altri più di noi stessi, lasciare spazio all'altro e valorizzare l'altro. E fino a questo punto, quello che vorrei farvi notare è che tutte queste risposte provengono da persone al di fuori della nostra chiesa, quindi di altre chiese. Poi sono arrivate anche le risposte dalla nostra chiesa. E la risposta dalla nostra chiesa è stata questa: condividendo cibo insieme. Cioè, è incredibile, cioè dobbiamo sempre distinguerci. E la cosa interessante, sapete qual è? È che non una persona mi ha risposto questo, ma ben due persone di questa chiesa hanno risposto. Su 10 risposte che ho avuto, 2 erano della nostra chiesa e mi hanno risposto mangiando insieme. Ed è lì che ho chiesto perdono a Dio, ho detto scusami Signore, perché come pastore sono riuscito a comunicare solo questo, quale principio biblico. Quanto ci piace mangiare insieme, è vero? E anche questo è fare famiglia, quindi vi ringrazio Giacinto e Vito, dalla prima all'ultima fila, ci coprono proprio tutto. Grazie, grazie. Però Dio mi ha voluto talmente bene che c'è stata un'altra risposta dalla nostra chiesa, ed è la risposta del mio fratello preferito. Da quel momento è diventato il mio fratello preferito, l'ho amato con tutto il cuore perché ha dato la risposta giusta e si è riscattato e ha detto: noi nel riconoscere, noi siamo chiesa e dimostriamo di essere famiglia nel riconoscerci, ascoltate bene perché è profondissima questa cosa, nel riconoscerci figli e fratelli. Questo è essere chiesa, questo è fare famiglia. E noi siamo qui riuniti stamattina perché è importante che ci ricordiamo che siamo figli e siamo fratelli, siamo sorelle. Quindi grazie a Luigi Altamura, io ti voglio troppo bene, grazie che ci sei, è per questo che l'abbiamo assunto a tempo pieno, perché ci dà queste risposte ed è così biblico. Grazie Luigi per la tua risposta. Ora, noi siamo fratelli e sorelle, ascoltatemi bene, è molto importante comprendere questo, perché noi possiamo scadere nel diventare un gruppo di amici che frequenta una chiesa. Cioè veniamo in chiesa perché siamo stati salvati, tutto è cominciato perché abbiamo conosciuto il Signore e poi abbiamo avuto la grazia di conoscere altre persone, ma quello che poi è successo è che noi abbiamo fatto amicizia con queste persone e cammin facendo abbiamo potuto vivere, e questo è un fenomeno che avviene molto spesso nelle chiese e noi non ne siamo esenti, abbiamo potuto vivere quella che è una relazione di amicizia durante la settimana, che poi ci porta a condividere uno stesso luogo che è la chiesa la domenica. E questa è una cosa che va eliminata dalla nostra concezione di essere chiesa e fare chiesa. Tu non sei un mio amico, tu sei prima e più di tutto, che ti piaccia o meno, mio fratello, mia sorella. Noi non siamo qui perché abbiamo delle affinità, dei gusti in comune, non è perché ci piace stare insieme, fare le uscite, andare in spiaggia, tutte cose molto positive, ma se noi cadiamo nell'errore di vivere amicizia che poi frequenta la Chiesa, abbiamo perso il bersaglio e abbiamo perso di vista il motivo per il quale Cristo Gesù è venuto, è morto ed è risorto. Perché Gesù è venuto, è morto ed è risorto per riconciliarci al Padre, per darci una relazione con il Padre, ma anche è morto ed è risorto per darci la capacità di amare il nostro prossimo e connetterci al nostro fratello e alla nostra sorella. È importante che noi comprendiamo questo. È fondamentale che noi ci sentiamo famiglia, non comitiva. Questa non è un'associazione. Questo non è un luogo di ritrovo. Questa non è una comitiva. Questa è una famiglia. E tu non hai scelto me. E io di certo non ho scelto te. La Bibbia è chiara e Gesù lo dice: non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi, e quindi chi ha al tuo fianco, a sinistra e a destra, è qualcuno che Dio ha scelto. Ed è questo, è importante che tu lo riconosci, è importante che tu riconosci l'appartenenza e l'amore che ti viene non suggerito da Dio, non consigliato da Dio, ma comandato da Cristo Gesù. È Gesù che ci lascia un comandamento principale: amatevi gli uni gli altri. E l'amore non è determinato da una scelta e da un sentimento. L'amore è un impegno, è un sacrificio, è una consacrazione a quel Dio che ci chiama a questo amore. Ora, per comprendere meglio tutto questo, io vorrei leggere con voi una bellissima storia che si trova in Luca 10. Leggetela con me perché è molto, molto curiosa, molto, molto interessante. La conosciamo molto bene, è la parabola del buon samaritano. E ha tanto da farci comprendere, anche proprio in tema di fare chiesa e vivere le relazioni. Prima di leggerlo, posso dirti questo: le relazioni nella tua vita non sono una maledizione. Le relazioni nella tua vita non sono una minaccia. Le relazioni nella tua vita sono un'opportunità che Dio ti dà. Tutte le relazioni, non alcune. E Dio ti dà tutte le relazioni che hai per darti un'opportunità attraverso ciascuna di esse. Nessuna delle relazioni che Dio ti dà da vivere sono una minaccia e una maledizione venuta da Satana. Tutte le persone che Dio mette al tuo fianco sono un'opportunità che Dio ti dà per vivere appieno la sua presenza. Un predicatore ha detto molto bene, ha detto: se io non avessi voi, Chiesa, non avrei bisogno del frutto dello Spirito Santo. È vero, pensateci un po'. Se non sapete qual è il frutto dello Spirito Santo, andatelo a leggere in Galati 5. In altri termini, potremmo anche dire che senza le relazioni non c'è il bisogno di avere il frutto dello Spirito Santo, o meglio, senza le relazioni non abbiamo la possibilità neanche di dimostrare che lo Spirito Santo agisce dentro di noi. Il frutto dello Spirito Santo è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, mansuetudine, autocontrollo, benignità, fedeltà, e sono tutte cose che Dio ci dà la capacità di poter vivere nelle relazioni. Quali? Quelle belle? Quelle amicali? Quelle che ci fanno stare bene? No, quelle conflittuali, quelle difficili, quelle che ci portano al sacrificio, quelle che ci portano e spremono il nostro carattere, mettono a dura prova la nostra carne, perché l'autocontrollo, la mansuetudine, tu non dimostri di averla da parte dello Spirito Santo se stai con qualcuno che ti dà autocontrollo, ti comunica mansuetudine. Tu manifesti il tuo autocontrollo e la tua mansuetudine proprio con quelle persone che ti fanno perdere il controllo e mettono a dura prova la tua mansuetudine. Ed è lì che dimostri di avere la pienezza dello Spirito Santo. Leggiamo insieme questa storia, è bellissima. Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova, dicendo: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Nella legge che cosa è scritto? Come leggi?» Egli rispose: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gesù gli disse: «Hai risposto esattamente. Fa questo e vivrai». Vedete, Gesù dà una risposta molto chiara. La vita eterna, la salvezza, è manifestata proprio dal fatto che noi siamo riconciliati col Padre e abbiamo la possibilità di amarlo con tutta la mente, con tutta la forza, con tutta l'anima. Ed è manifestata la nostra salvezza perché amiamo il nostro prossimo come noi stessi. Infatti la Bibbia dice addirittura nella prima epistola di Giovanni che se noi odiamo il nostro fratello, allora non è vero che siamo stati salvati. È molto chiaro, molto esplicito, molto diretto. Quindi Gesù sta dicendo: questa è la chiave esatta. Però quello che io vorrei che noi comprendessimo è che con questa storia Gesù non sta dando una risposta come essere salvati per opere. Perché noi non siamo salvati per opere, noi siamo salvati per grazia, ponendo fede in Cristo Gesù. Quindi Gesù non sta dicendo al dottore della legge: fai queste cose e otterrai la vita eterna. Sta dicendo a questo personaggio qui: fai queste cose, dimostrami di essere perfetto e di fatto sarai salvato, ma ti ritroverai a non riuscire a fare queste cose e di conseguenza avrai scoperto qual è il reale problema che hai nella tua vita. Il fatto che non sei rinato, che non hai la possibilità di avere il perdono dei tuoi peccati e non sei stato riconciliato con Dio. Dio poi dà risposta e soluzione quando muore e risorge dopo 3 giorni. Non la dà ora. Ora che cosa fa? Accentua il problema e fa capire qual è il problema a questo dottore della legge. E quindi il dottore della legge, vedendosi male davanti alla risposta di Gesù, non sapendo che pesci prendere, gli fa un'altra domanda. dice, ora me la posso giocare su chi è il mio prossimo, perché io amo Dio e posso dire di amare qualcuno. Il mio prossimo, qualche vicino di casa, io gli voglio bene. Ed è lì che si gioca tutto. E quindi leggiamo nel versetto 29 che egli, volendosi giustificare, disse a Gesù, e chi è? Chi è il mio prossimo? Gesù rispose, ascoltate questa storia, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada, ma quando lo vide passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita, giunto in quel luogo, lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano che era in viaggio giunse presso di lui e vedendolo ne ebbe pietà. Avvicinatosi, fasciò le sue piaghe versandovi sopra olio e vino. Poi lo mise sulla propria cavalcatura. Lo condusse a una locanda e si prese cura di lui per un'intera notte. Il giorno dopo prese 2 denari, li diede all'oste e gli disse, prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno. Quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? Quegli, il dottore della legge, che interroga Gesù, rispose, colui che gli usò misericordia. Gesù gli disse, va e fa anche tu la stessa cosa. La volontà del nostro Padre è che noi amiamo il nostro prossimo. La volontà di Dio per te è che tu abbia una vita piena e abbondante, nella quale vivi non la minaccia delle relazioni, ma l'opportunità di amare chiunque incontri per strada. Chiunque incontri per strada. La risposta di Gesù a questo dottore della legge, alla domanda chi è il tuo prossimo, in buona sostanza, riassumendo il tutto, è chiunque trovi per strada, chiunque trovi nel percorso della tua vita. Non scegli tu il tuo prossimo da amare, ma sei tu che scegli di essere il buon prossimo che mostra amore. Ve lo dico di nuovo, non sei tu che scegli il tuo prossimo, questo si abbina benissimo alla Chiesa. Non sei tu che scegli il tuo fratello, non sei tu che scegli la tua sorella, ma sei tu che scegli di essere quel buon fratello e che, quella buona sorella che manifesta amore e sceglie di amare chiunque. Chiunque della famiglia di Dio, chiunque incontri nel percorso che Dio ti dà da vivere. Questa è la risposta di Gesù. Il tuo prossimo è chiunque. E lo so che nella tua mente adesso stanno scorrendo nomi e facce, colleghi di lavoro, marito, moglie, figli, familiari, relazioni conflittuali, quello che è successo la scorsa settimana, quello che sta per succedere domani. E in tutto questo noi siamo in una tensione costante e Dio dice, la mia volontà per te, per darti una vita piena, e darti la capacità nello Spirito Santo di relazionare con tutti. E il posto migliore dove poter esercitare tutto questo è proprio la Chiesa, la famiglia di Dio. Noi siamo famiglia perché Dio ci ha messo insieme per perfezionarci gli uni gli altri. E il modo migliore che Lui adotta per perfezionare il mio carattere è mettere al mio fianco la persona più difficile che io abbia mai incontrato nella mia strada e che non scelgo di avere al mio fianco e che ha tanto da mostrarmi i miei difetti, le mie mancanze, i miei limiti, la mia voglia di passare oltre e andare oltre quel bisogno, quella necessità, quell'amore, quel perdono che Dio invece mi sta chiamando ad avere nei confronti di quella persona. Dio ci invita ad amare chiunque, chiunque, ogni fratello, ogni sorella. Non fare l'errore di vivere la Chiesa scegliendoti una stretta cerchia di persone e vivere bene quelle relazioni, escluderne altre, A volte escludiamo gli altri per una selezione naturale, no? Noi non crediamo nella selezione naturale, però a volte nelle relazioni funziona proprio così. Chi non ci sta genio, chi porta conflitto interiore, non solo esteriore, a volte basta un conflitto interiore, viene escluso, viene messo in una lista nera. E noi abbiamo il vantaggio che siamo una chiesa numerosa, vero? Io mi ricordo quando eravamo una chiesa molto più piccola, non potevi scansare le persone. Le conoscevi tutte, vivevi con tutti e si affrontava ogni cosa e se non l'affrontavi si ripresentava. Ora siamo una chiesa più grande e abbiamo la possibilità di scegliere. Quanto è difficile questo periodo dell'anno, no? Settembre, perché in alcuni casi, almeno so per i giovani adulti, vengono rimescolate le carte e quindi i gruppi familiari vengono fatti saltare in aria per riformare dei nuovi gruppi con delle persone che non sai come vivrai, non sai che sfida avrai, non sai quanto connetterai con questi. Eppure Dio vuole questo, Dio vuole che noi impariamo ad amare tutti, giovani e anziani. Persone che sono acculturate, con le quali riusciamo a connettere, e persone che hanno una cultura, un vissuto, una storia diversa dalla nostra. Dio vuole tirare fuori il meglio di te attraverso ogni relazione. Non è l'altro che deve cambiare, sei tu che hai l'opportunità di cambiare. Il buon samaritano mostra questa verità. La scelta del buon samaritano è assurda, è straordinaria, perché in altri termini Gesù sta parlando di razzismo. I samaritani erano un'etnia che era in fortissimo conflitto con i giudei. C'era una distanza fra le due parti e questo è per tutta una serie di ragioni, per tutto un vissuto, per tutta una storia. Per scelte che i samaritani avevano fatto e che i giudei rigettavano, perché loro non seguivano tutte le tradizioni, non erano puri davanti a Dio, si sposavano con donne straniere, facevano delle scelte compromettenti, accoglievano quelli che erano i criminali giudei che non venivano più accolti nel popolo, venivano mandati via ed erano esiliati e i samaritani li accoglievano. Quindi era un'etnia che era odiata dai giudei e c'era conflitto fra le due parti. Infatti lo sappiamo bene che a un certo punto della storia nei Vangeli gli apostoli con Gesù si ritrovano in un villaggio samaritano e non vengono accolti. Perché? Perché erano giudei, erano galilei. E vi ricordate quello che i discepoli dicono a Gesù? Gesù, vuoi tu che chiamiamo dall'alto il fuoco, in modo tale che zolfo e fuoco cada su questo villaggio e li distrugga tutti? E Gesù li riprese. Non ci sono scritte le parole che disse, ma evidentemente, secondo me, Gesù ha detto a loro: non avete capito niente. Non è per questo che sono venuto. Quando hanno voluto dire qualcosa di estremamente offensivo nei confronti di Gesù, lo hanno chiamato samaritano indemoniato. Perché non c'era ingiuria più grande che tu potevi attribuire a una persona. Samaritano indemoniato. Quindi quando Gesù in questa storia, dopo aver citato il sacerdote che fallisce, dopo aver citato il levita che era parte della tribù scelta per servire al tempio e fallisce perché va oltre, nel momento in cui Gesù cita samaritano, in quel momento sicuramente tutte le persone che lo stavano ascoltando hanno trattenuto il fiato e hanno cominciato a pensare, a dire: non mi dire che il samaritano ora diventa l'eroe di questa storia, non ti permettere ora di dare una buona immagine di questo samaritano. Sarebbe la cosa più catastrofica che tu ti ritrovi a fare, Gesù, come maestro. Infatti alla domanda di Gesù al dottore della legge, quando gli dice: allora chi è di questi tre l'eroe della storia? Il dottore della legge non ha neanche il coraggio di dire il samaritano. Dice: quello che ha mostrato misericordia nei confronti del giudeo, del ferito. c'era un'ostilità fra i giudei e i samaritani tale che le due etnie non comunicavano fra di loro. E Gesù qua sconvolge l'ordine delle cose, come a lui piace fare. E dice: vuoi sapere chi è il tuo prossimo? Il nemico che trovi per strada e che ha bisogno di te. Il fratello che ripetutamente ti ha ferito e con il quale hai difficoltà a servire e collaborare insieme e che vorresti scansare ogni domenica che vieni in chiesa. Vuoi fare quello che io amo che tu faccia? Ama quella persona. Fascia le sue ferite. Prenditi cura di lui. Investi il tuo tempo. Abbiamo letto che il buon samaritano rimase una notte intera con quest'uomo, il suo nemico, e spese i suoi soldi, 2 denari, si assicurò che quest'uomo rimanesse nell'hotel per 2 mesi. Questa era più o meno la quantità di tempo. Ora immaginate di pagare a qualcuno la permanenza, il pernotto in un hotel per 2 mesi. È una bella spesa, è un bel investimento. Il buon samaritano dimostra tutta la sua generosità, è una generosità stravagante, perché a un certo punto va al responsabile dell'hotel a dirgli: è tutto quello che spenderai, gli dà la possibilità di speculare, tutto quello che spenderai io te lo ridarò quando verrò. Questo è il modello che Gesù ci propone, e io, tu siamo chiamati a vivere questo modello. Io, tu, siamo chiamati a vivere delle relazioni che non sono razziste. Com'è che viviamo il razzismo in mezzo a noi? Non per la persona di colore che incontriamo per strada. Spero di no. Ma il razzismo noi lo viviamo quando facciamo una stretta selezione dei fratelli e delle sorelle con le quali trattare. I fratelli e le sorelle che vogliamo amare, e per altri passiamo all'altro lato della strada. È lì che siamo razzisti, è lì che scegliamo di favorire alcuni e screditare e emarginare altri. E questo è sbagliato. Forse deriva dal fatto che c'è una storia, un vissuto, come tra i samaritani e i giudei c'era un vissuto, c'era una storia, non si poteva cancellare tutto a un tratto. E forse c'è una storia, c'è un vissuto, ci sono dei torti che hai subito, ci sono delle cose che ti sono state dette, ci sono state delle azioni commesse nei tuoi confronti sbagliate che hanno ferito il tuo cuore, hanno ferito la tua anima. Ma se accumuli, se leghi, se trattieni e metti sopra la tua testa il ricordo di tutti questi torti, prima o poi verrai schiacciato e non sarai libero. Gesù ti invita ad essere libero. Questo vale per noi mariti nei confronti delle nostre mogli e voi mogli nei confronti dei vostri mariti. Questo vale per tutte le relazioni. Se accumuli nel tempo, cominci a maturare una forma di razzismo come quello tra i samaritani e i giudei. E noi ce le segniamo, purtroppo ci segniamo molto più spesso i torti che subiamo piuttosto che i benefici che otteniamo dai nostri fratelli e dalle nostre sorelle. Ed è tempo che noi voltiamo pagina, è tempo che giriamo e apriamo un nuovo capitolo della nostra storia. E questo può essere il momento giusto per farlo. Perdoniamo i torti e viviamo con freschezza i nostri rapporti, le nostre relazioni. Sapete, questo è quello che Dio fa con noi. Ve lo voglio leggere, e sono gli unici versi carini di Lamentazioni. Sono gli unici versi che ci piace leggere di Lamentazioni, però è un bellissimo libro tutto quanto, però sicuramente queste parole sono le più belle. In Lamentazioni 3 noi leggiamo: ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare è una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande e la sua fedeltà. E in Efesini 4 c'è scritto: il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. Sapete cosa Dio ci mostra? Qual è il suo esempio nei nostri confronti? Che Lui rinnova ogni giorno il pensiero che ha di noi. Lui rinnova ogni giorno la relazione con noi. Non imputa i peccati e le colpe del giorno prima e non vive una relazione con noi basata sulla nostra storia. Lui vive una relazione con noi basata sulla sua compassione, le sue misericordie, la sua grazia che ogni mattina si rinnovano. Vuoi vivere delle buone e sane relazioni che portano libertà in te e libertà negli altri? Vuoi rientrare nel piano di Dio per la tua vita? Allora fai una cosa: vivi le relazioni non in base a quanto è accaduto ieri o nella tua storia con quel fratello, con quella sorella, ma vivi le tue relazioni in base a quello che puoi vivere oggi, e scegli di vivere oggi, e scegli di essere quel buon samaritano oggi. Questo cambierà tutto. Troppo spesso si sentono predicazioni che parlano del fatto che la nostra relazione con Dio determina la relazione con gli altri, ed è vero, è verissimo. Più sei pieno dello Spirito Santo, più hai una buona relazione col tuo padre, più riesci ad amare i tuoi fratelli. Però c'è qualcosa che voglio richiamare all'attenzione di ciascuno di noi. E cioè il fatto che la Bibbia dice anche che le nostre relazioni determinano la relazione con il nostro padre. È piuttosto pesante quello che sto per dire, però è la verità che Gesù rivela. E Gesù dice che se noi non perdoniamo al nostro prossimo i torti che lui ha fatto, neanche lui perdonerà a noi i nostri peccati. E questo è terribile. È terribile perché io posso ritrovarmi qui a parlare a delle persone che hanno un rapporto bloccato con Dio. Non hanno una relazione con Dio e magari non se ne rendono neanche conto, ma vivono una forma di pesantezza, di angoscia, di depressione, non la riescono a spiegare. E forse la risposta a questa angoscia, a questa depressione, a questa pesantezza che vivi nella tua vita è perché Dio non perdona i tuoi peccati. È pesante come cosa, ma è la dura verità, è quello che Gesù dice. E Dio non perdona i tuoi peccati e non rinnova le sue misericordie, non rinnova la sua grazia nei tuoi confronti. Perché? Perché tu non stai perdonando il tuo fratello, perché tu stai riservando rancore, perché tu hai ancora ricordi di torti che hai subito e non sei in grado di lasciarli andare, non ti metti in condizione di lasciarli andare. Lo so, ho predicato tanto sul problema, però c'è la soluzione. E la soluzione è Cristo Gesù, il suo sangue versato per ciascuno di noi. Lui è la soluzione per noi nell'essere una famiglia sana che funziona, per te nel vivere delle relazioni che sono di benedizione reciproca. Gesù è la soluzione. Quindi quello che possiamo fare stamattina è andare a Lui e chiedere a Lui perdono, confessare a Lui le nostre colpe, i nostri peccati. E quello che poi possiamo fare dopo questo incontro è andare agli altri, riconciliarci, vivere freschezza nelle relazioni, voltare pagina, vedere le persone per quello che Dio ci chiama a vederle oggi e non quale risultato di tutti i torti che ci hanno fatto nel loro passato. Vogliamo alzarci in piedi? Se senti che questo messaggio era per te, io voglio invitarti a venire avanti. Mentre il gruppo lode ci guiderà in un tempo di lode e adorazione, io voglio che noi non alziamo la mano o che io non faccia una preghiera così generale per tutti. Io voglio che tu vieni avanti e dimostri la scelta coraggiosa che hai di vivere il perdono nella tua vita e di scegliere di abbracciare la Chiesa, i tuoi fratelli, le tue sorelle per quello che sono, quale opportunità che Dio ti dà. Vedo che già ci sono delle persone che stanno venendo. Allora vieni, dovunque ti trovi, vieni, riempiamo tutto questo spazio qui avanti e vogliamo lasciare alla croce di Cristo Gesù tutto questo per uscire da qui liberi. Alleluia Padre, noi ti ringraziamo. Ti ringraziamo per l'amore che tu hai per noi. Ti ringraziamo per l'opportunità che noi abbiamo nella croce di Cristo Gesù di essere riconciliati a te. Grazie perché possiamo vivere una relazione intima e personale con te, nostro Padre, e possiamo vivere delle relazioni sane con gli altri, con i nostri fratelli, con le nostre sorelle, con il nostro prossimo, chiunque incontriamo per strada. Vogliamo il tuo Spirito Santo, vogliamo la tua guarigione, vogliamo la tua liberazione stamattina. Chiediamo che tu possa operare. Alleluia. Forza, se devi venire avanti, vieni avanti ora. Non aspettare ancora. Se vuoi che preghiamo per te, vieni qui avanti. Io voglio pregare individualmente per ciascuna delle persone che è venuta qui avanti. E se non pensi che questo è un appello per te, allora ti chiedo di stare alla presenza di Dio, adorarlo, pregare e intercedere per chi sta facendo questo passo. Forza Chiesa, preghiamo.